Le carceri sono chiuse, il coronavirus però ha le chiavi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Prisons have become one of the flashpoints of the virus, with riots breaking out in Italy and thousands of inmates being freed in Iran. A 49-year-old inmate became the first American prisoner to die of the coronavirus. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi vi raccontiamo ciò che accade al di fuori dei confini italiani. Per farlo c'è tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano: Antonio Taglia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Elisabetta Fusconi e in console Andrea Roccabella. (349) 238 6666 per SMS e WhatsApp per domande e commenti. C'è anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. C'è anche Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Per commentare o porre domande su che cosa? Su uno dei grandi temi di questo momento, forse snobbato dalla maggior parte dei media, ma in realtà è una grande nevralgia di cui sta soffrendo l'intero mondo, cioè la popolazione carceraria, come sta vivendo la pandemia. Incarcerati, giustamente detenuti, a volte ingiustamente, altre volte in custodia cautelare. La popolazione carceraria nel mondo è di 11 milioni e mezzo di persone. Il Covid-19 evidentemente non guarda ai muri, ai perimetri di difesa e alle celle. Le rivolte nelle carceri italiane qualche settimana fa, ma non solo. Amnestie e regimi carcerari diversi vengono attuati in molte parti del mondo. Ma è una risposta efficace? E siamo sicuri che non preoccuparci del sistema carcerario prima del Covid-19 non sia stato un errore? Su questo aspetto evidentemente i vostri commenti. 349-238-6666. La prima cosa da fare però è sfogliare i nostri dossier internazionali. È di poche ore fa la notizia che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca per inadempimento di due differenti decisioni dello stesso Consiglio Europeo rispetto alla ricollocazione di richiedenti asilo politico. Le due decisioni risalgono al 2015 e prevedevano il ricollocamento complessivo di 160.000 persone. Proprio nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano stavamo ragionando su come e quando l'Unione Europea potesse sanzionare i membri, diciamo così, riottosi nei confronti di quelle che sono le norme europee. Su tutti un dossier, quello dell'immigrazione, che ha messo la corda l'Unione Europea stessa. Ebbene, a distanza di 4 anni, la Corte di Giustizia, che è l'organo sanzionatorio, giudiziario e poi sanzionatorio, ha appunto sanzionato questi 3 paesi. Sostanzialmente la Corte ha accolto i ricorsi per inadempimento presentati dalla Commissione europea contro questi 3 stati, stabilendo che questi ultimi non possono invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna, né il presunto malfunzionamento del meccanismo di ricollocamento per sottrarsi all'applicazione del meccanismo stesso. In sostanza, a questo punto, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, al di là delle scuse, lo dico forse con un'espressione un po' troppo prosaica, che accamparono 5 anni fa, sono tenute a conformarsi alla sentenza, altrimenti la Commissione potrà proporre un altro ricorso chiedendo eventualmente delle sanzioni pecuniarie. Siamo in Polonia perché, nonostante la pandemia del Covid-19 e le preoccupazioni per la sicurezza e la salute pubblica, il governo polacco non vuole sospendere o posticipare le elezioni presidenziali previste per il prossimo 10 maggio. I critici sostengono, come potete ben immaginare, che la decisione sia ingiusta, non democratica e soprattutto potenzialmente pericolosa. Il governo polacco viene accusato di voler capitalizzare i sondaggi positivi al momento e la richiesta di generale stabilità dovuta alla pandemia da coronavirus, invece di voler rinviare le elezioni, che sarebbe probabilmente dal punto di vista sanitario ma anche logico la decisione più saggia. Adesso vi porto in Pakistan perché una sentenza di un tribunale pakistano sta destando scalpore, a dir poco. Dicevo, una corte pakistana ha annullato la sentenza di condanna a morte di Ahmed Omar Saeed Sheikh. Era stato giudicato colpevole per l'omicidio del giornalista americano Daniel Pearl lo ricorderete, forse qualcuno di voi lo ricorderà, era il 2002. L'imputato Sheikh era stato ritenuto colpevole di aver partecipato al rapimento del giornalista e poi condannato a 7 anni di reclusione già scontati. Le accuse di omicidio non sono state provate, ha dichiarato l'avvocato di Sheikh all'agenzia Reuters. Lo stesso tribunale ha annullato anche le 3 condanne all'ergastolo che riguardavano altri 3 uomini coinvolti nel rapimento del giornalista americano, e secondo quanto riferito i loro legali, gli imputati potrebbero essere liberati a breve. Già nel 2011 un report basato su una lunga ricerca, una ricerca durata ben 4 anni e portata avanti dalla facoltà di giornalismo della Georgetown University, aveva sollevato grossi dubbi sulle responsabilità di Sheikh, sostenendo che, come gli altri 3 condannati, avrebbe preso parte al rapimento ma non all'uccisione di Pearl. Lo ricordiamo, Daniel Pearl all'epoca aveva 38 anni, era un giornalista del Wall Street Journal, venne rapito a Karachi il 23 di gennaio mentre conduceva nel 2002 un'inchiesta sui fondamentalisti islamici e poi venne decapitato 9 giorni dopo, e fu un gesto eclatante che segnò quasi uno spartiacque tra quella che era in qualche modo la possibilità da parte della stampa occidentale di raccontare l'estremismo islamico, con poi tutte le conseguenze che hanno portato alla violentissima propaganda dell'ISIS e l'allergia di molti di questi gruppi a qualsiasi racconto giornalistico. Nelle Filippine il presidente Rodrigo Duterte si sta distinguendo per un'altra mossa particolarmente muscolare. Ricorderete, negli anni scorsi la sua lotta al narcotraffico si tradusse poi in una lotta anche a chi faceva uso di sostanze stupefacenti, con un asservimento da parte delle forze di sicurezza e dell'ordine pubblico a dei criteri francamente particolarmente stringenti. E per mesi si è andato avanti nelle Filippine con una caccia al drogato, non solo allo spacciatore, con risultato che finivano morti e ammazzati dalle forze di sicurezza o da squadroni di paramilitari non soltanto i trafficanti di droga ma anche semplici consumatori. Ebbene, cosa ha deciso Rodrigo Duterte ultimamente? Semplicemente che per far rispettare la quarantena, quando qualcuno viene beccato, nel caso non la stesse rispettando, gli si può sparare, cioè la polizia può sparare a vista a chi non rispetta la quarantena. 349-238-6666, c'è qualcuno che parla delle rivolte carcerarie in Italia dicendo è solo un pretesto, c'è qualcun altro che dice relativamente alle tardive sanzioni dell'Unione Europea, spero una volta di più vengono riscritte tante regole per renderla più reattiva, così Enrico che ritorna sull'annoso tema di come l'Unione Europea possa farsi rispettare, far rispettare i paesi che non aderiscono alle norme ma anche ai principi. Ne abbiamo parlato proprio qui recentemente. Detto ciò, questi sono i nostri dossier internazionali. Adesso, Andrea Roccabella, è il momento di aprire una porta. Non abbiamo mai avuto accesso alle misure sanitarie del governo russo. Quindi abbiamo organizzato da soli il nostro kit medico, che tutti i detenuti possono usare. Tuttavia, da quando è in vigore il blocco a causa del coronavirus, ottenere delle forniture nuove è diventato estremamente più difficile, perché il flusso dei pacchi che arrivano dall'esterno del penitenziario si è completamente interrotto. Nelle prigioni russe si verifica una situazione simile non solo con le medicine, ma anche con i generi alimentari. Dato che la qualità del rancio del penitenziario è estremamente scadente, i detenuti spesso sopravvivono solo grazie al cibo inviato loro dai parenti. Ma adesso che anche tutta la posta è bloccata, la scarsità di cibo nelle carceri è davvero preoccupante. La testimonianza che avete sentito arriva dalla voce di un detenuto russo. Siamo in un territorio non meglio precisato, in un carcere non meglio precisato della Russia di oggi. La testimonianza è stata raccolta da un lungo articolo, una lunga ricerca che è stata pubblicata su Foreign Policy. Dicevo, abbiamo aperto una porta, è il momento di varcare una soglia, un cancello, una porta appunto che segna la libertà fra la libertà e la prigionia, un confine che è diventato, se volete, paradossalmente più labile con l'epidemia del Covid-19. 20 giorni fa diverse carceri italiane da nord a sud sono state scosse da violente proteste innescate proprio dalla decisione di sospendere i colloqui dei detenuti con i familiari. La protesta che si è svolta nel carcere di Modena ha avuto poi un esito particolarmente drammatico, 13 persone morte a seguito dell'assunzione di metadone e altri farmaci che erano stati prelevati dall'infermeria. Secondo le stime ufficiali sono 15 detenuti positivi al Covid-19. Oggi poi è morto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna il primo detenuto positivo al coronavirus. A Milano nei giorni scorsi era deceduto un agente della polizia penitenziaria. Ma vi sono state nelle ultime settimane e giorni rivolte anche nelle carceri francesi, dove 20 detenuti si sono rifiutati di tornare in cella dopo l'ora d'aria. Evasioni in Brasile, si calcola che 1000 detenuti siano evasi dai penitenziari dello stato di San Paolo. Rivolte molto drammatiche anche in Perù e in Cile, ma la più sanguinosa è avvenuta in Colombia, nel carcere La Modelo di Bogotà, con la morte di 43 detenuti. Non è un caso che abbia parlato Michelle Bachelet, l'alto commissario ONU per i diritti umani. Sentite cosa ha detto. In molti paesi le strutture detentive sono sovraffollate, in alcuni casi pericolosamente sovraffollate. Il distanziamento fisico e le misure di autoisolamento in queste condizioni sono praticamente impossibili. Per questo lancio un appello ai governi ad adottare misure urgenti per proteggere la salute delle persone detenute. Questo è l'appello di poche ore fa di Michelle Bachelet, alto commissario ONU per i diritti umani. Sentite la voce di Florence Lofay, che è il direttore di Prison Insider. È un'associazione, un sito internet, la cui missione è quella di raccogliere tutti i dati possibili a livello mondiale sulla situazione della popolazione carceraria. Sembra una puntata che si sta dedicando e focalizzando su una minoranza, ma che capirete molto presto che, se è vero che non è una minoranza, 11 milioni e mezzo di persone sulla faccia della terra, è vero che la popolazione carceraria è presente in tutti i paesi del globo ed è una ferita aperta in questo momento. Tra i fragili e tra i più vulnerabili, i detenuti in questo momento lo sono ancora di più. Quali sono i rischi del coronavirus nelle carceri mondiali? Perché stiamo parlando di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano? Sentite Florence Lofay. Il y a aujourd'hui dans les prisons du monde près de 11 millions et demi de détenus. Oggi nelle carceri di tutto il mondo sono detenute circa 11,5 milioni di persone. Vivono in condizioni di grave sovraffollamento, la promiscuità è diffusa e le condizioni igienico-sanitarie in generale sono cattive. Il rischio oggi con l'epidemia di coronavirus è di assistere a un numero molto elevato di decessi, morti che si registreranno sia tra la popolazione detenuta sia tra coloro che lavorano nelle carceri. Bisogna ricordare che le persone detenute sono state condannate a pene detentive e non alla pena di morte. La mancata protezione dei detenuti, quindi, mette in pericolo lo Stato di diritto. È un fallimento delle responsabilità dei governi nei confronti dei detenuti. Al di là dei rischi per le persone detenute, ci sono anche i rischi per i loro familiari. Tutta la popolazione viene messa a rischio. È necessario infatti ricordare che le carceri non sono ambienti isolati, ci sono scambi quotidiani. Penso agli agenti penitenziari che entrano la mattina ed escono la sera. Ci sono le visite degli avvocati e dei familiari, ci sono i trasferimenti dei detenuti nei tribunali. Questo significa che difficilmente il contagio si limiterà a rimanere all'interno delle carceri, ma potrà anche diffondersi all'esterno. Per quanto riguarda questa epidemia di Covid-19, la situazione di tutte le prigioni del mondo è quindi simile a quella di una pentola a pressione sanitaria che rappresenta un rischio per i detenuti, i loro familiari e il mondo intero. Per i detenuti, per i prossimi e per il mondo intero. Bye. Avete appena sentito la voce di Florence Loffet, dirige Prison Insider, è un sito ma anche un'associazione. Il sito evidentemente è lo specchio e riflesso del ricco lavoro che compiono quotidianamente cercando di aggregare tutti i dati disponibili sulla situazione delle carceri nel mondo. Una pentola a pressione sanitaria, così la Florence Loffet, la direttrice, l'ha definito. Adesso vi porto negli Stati Uniti per una serie di dati, alcuni in realtà risalgono a qualche anno fa. Il 25% dei detenuti mondiali sono negli Stati Uniti, in parte perché questa cosa si può spiegare perché c'è l'arresto per reati non violenti, per esempio. Qualche anno fa lo stesso Economist scriveva che l'America arresta troppe persone per troppe cose. Poi c'è la proliferazione delle leggi federali, sono passati da 3.000 nei primi anni 80 a 4.500 del 2008, così molte persone vanno a contravvenire a delle leggi senza nemmeno sapere che lo stanno facendo e anche per questo possono finire in carcere. Poi c'è il problema delle cosiddette minoranze, che in molti stati minoranze non sono, i latinos e gli afroamericani. Poi c'è il problema dei detenuti che lavorano, almeno 1 milione di detenuti statunitensi lavora e qua c'è il business nel business. Guadagnano pochissimo, molto meno dei cosiddetti, il corrispettivo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Ci sono anche le prigioni private, come qualcuno di voi al 349-238-6666 ha già giustamente sottolineato, con qualità del cibo assolutamente discutibile e a volte anche casi di patologie legati proprio alla pessima qualità del cibo. Proviamo a fare una fotografia di quella che è la situazione delle carceri statunitensi in un momento in cui gli Stati Uniti sono l'epicentro vero e proprio del virus. Lo facciamo con Stefano Luconi, che è professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Professor Luconi, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Allora, professor Luconi, con lei iniziamo questo lungo viaggio che faremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Proveremo a volo d'uccello a raccontare alcune realtà carcerarie nel mondo. Partiamo dallo Stato, in particolare di Washington, perché lì è stato il primo Stato, scusate la ripetizione, colpito dal virus negli Stati Uniti, ma ha avuto una pronta reazione, professore. Sì, è successo proprio così. Fino alla metà di marzo lo Stato di Washington ha avuto il triste primato del record nazionale statunitense nel numero dei contagiati e nel numero dei decessi. Poi è stato sostituito dallo Stato di New York. E in conseguenza di questa emergenza, l'amministrazione penitenziaria, rendendosi conto del fatto che i carceri erano un potenziale focolaio di diffusione del coronavirus, ha proceduto a partire dai primi di marzo a trasferire agli arresti domiciliari circa il 20% della popolazione carceraria. In alcune strutture detentive statali la popolazione carceraria si è addirittura dimezzata, quindi sono stati degli antisegnani da questo punto di vista. Col professor Luconi, lo ricordo, insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, cerchiamo di tracciare quello che sono il perimetro di quella che la studiosa di regimi carcerari Florence Loffet, Prison Insider, definiva una pentola a pressione sanitaria. C'è un allarme, professor Luconi, che è stato lanciato dal Connecticut Mirror qualche giorno fa. Questo Stato non ha nessuna politica sui detenuti e ha una popolazione carceraria molto anziana. Verrebbe da dire che se normalmente un penitenziario è una pentola a pressione, se l'età dei detenuti è molto alta, qua la pentola a pressione è quella senza valvola, non so come dire, piove sul bagnato. Sì, direi che quella del Connecticut è una delle principali emergenze. Il Connecticut è un piccolo Stato, però pur essendo un piccolo Stato ha circa 12.000 detenuti in strutture detentive gestite a livello statale. C'è stata una giustificazione ufficiale da parte dell'amministrazione del governatore Ned Lamont, secondo la quale ci sono delle difficoltà a trovare familiari disponibili ad accogliere all'interno del nucleo familiare detenuti a causa dei comportamenti criminosi passato. Però effettivamente sì, il Connecticut è stato lo stato che ha mostrato la maggior resistenza a questa politica di trasferimento dei detenuti agli arresti domiciliari. Sì, perché professor Lucori, dobbiamo ricordare che i singoli governatori dei singoli stati degli Stati Uniti d'America hanno una certa libertà anche nel imporre delle norme differenti. 349-238-6666, ci sono un po' di vostri messaggi. Il problema carcerario è reale, ma un conto è snocciolare i numeri, un altro è risolvere il problema. Così Enrico, sono d'accordo, ma per risolvere il problema bisogna capirlo, per capirlo bisogna inquadrarlo, per inquadrarlo si parte normalmente dai numeri. Detto ciò, noi non siamo né politici né consiglieri politici, per cui ci permettiamo di raccontare quella che è, lo dicevo all'inizio di questa puntata, una nevralgia. È un problema assolutamente, non dobbiamo pensare che sia un problema relativo alla sola popolazione carceraria. Ci sono i detenuti, ci sono le guardie penitenziarie, c'è tutto l'aspetto di chi lavora dentro le carceri che vanno tutelate, ci sono famiglie divise, ci sono persone che vivono indirettamente le colpe dei padri e magari ogni tanto vorrebbero anche andarli a vedere, sto pensando ovviamente ai minori. Rispondo, mi verrebbe voglia di rispondere con un comment a un ascoltatore che mi scrive: fragili dei tagliagole, no comment. Non stiamo parlando di tagliagole, gentile ascoltatore, stiamo parlando di una popolazione carceraria. La popolazione carceraria può essere molto varia, e negli Stati Uniti può essere qualcuno che non ha pagato una multa, nelle prigioni curde c'è, può essere qualcuno che era un tagliagole, anche se non mi piace questa etichetta, quindi qualcuno affiliato all'ISIS. In Italia ci può essere qualcuno magari in carcerazione preventiva, magari qualcuno per un errore giudiziario, pensi lei. Ecco, quella è una popolazione fragile. Torniamo però col professor Lucconi, con la sua voce e la sua analisi. Lo ricordo, professore di storia degli Stati Uniti a Padova. Con 2,3 milioni di detenuti, quella americana è una delle popolazioni carcerarie più numerose del mondo. Ce la farà in generale, secondo lei, professore, a reggere l'urto di questo Covid-19 con delle risposte dei singoli stati che sono molto diverse? Abbiamo visto Connecticut e Washington. Non ci sarà bisogno a un certo punto che il presidente Trump prenda le redini e dia uniformità di reazione, quello che si è poi chiesto anche in Europa e su altri aspetti? Il problema è il problema legato alla complessa architettura del sistema carcerario statunitense. Per cui dei circa 2 milioni e mezzo di detenuti, soltanto il 15% è in strutture detentive che fanno capo all'amministrazione federale. Gli Stati Uniti sono uno Stato federale, quindi ci sono carceri dello Stato centrale, dello Stato federale, carceri dei singoli Stati, carceri addirittura delle amministrazioni municipali, come nel caso della città di New York. Quindi è difficile affrontare questa emergenza perché non c'è una politica univoca in ciascuno dei 50 stati. È difficile che Trump possa assumersi la gestione delle strutture carcerarie statali perché c'è un problema di federalismo. Abbiamo visto lo scontro pochi giorni fa tra l'amministrazione federale e l'amministrazione dello Stato di New York, sì, il governatore sì, Andrew Cuomo. Questo problema riguarda anche la gestione dell'emergenza del coronavirus a livello statale, proprio perché ogni Stato ha la sua struttura carceraria in parallelo alla struttura, dalle strutture carcerarie federali. Chiarissimo, la frammentazione, questa insularità quasi, no, delle varie strutture carcerarie, che è un problema di raccordo, di uniformità. Poi, sì, professore. E poi c'è da fare una piccola aggiunta. Sì. La metà di questo 15% di detenuti in strutture federali sta in strutture che non sono gestite direttamente dall'amministrazione carceraria federale, sono gestite da quelle società private alle quali lo Stato federale ha appaltato, certo, in appalto la gestione delle carceri. Queste società ricevono un compenso di tot dollari per ogni detenuto che trascorre un giorno in carcere, e quindi queste società offrono la maggior resistenza al trasferimento dei detenuti agli arresti domiciliari perché perdono il loro profitto. Alla faccia del particolare che ha aggiunto, professor Lucconi, mi sembrava illuminante e doverosa l'ultima precisazione che ha fatto, la ringrazio tantissimo. Lo ricordo, avete sentito la voce di Stefano Lucconi, che insegna storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. Professore, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Funziona la rieducazione carceraria? In Italia è un fallimento, sono d'accordo, peraltro sarebbe prevista dalla Costituzione. Il carcere non è punitivo, attenzione, andiamo a osservare i dati. Quei pochi carceri, io ho visitato quello di Padova per esempio, dove grazie a delle cooperative i detenuti possono lavorare, il tasso di recidiva scende enormemente. È chiaro che se tu lasci i detenuti a passeggiare in un cortile senza dare la possibilità di inseguire passioni, riabilitazioni, è chiaro che quando usciranno non funziona. E questo vale per tantissimi quadranti in giro per il mondo. Qualcun altro dice: in Italia nelle carceri la situazione è drammatica, sono polveriere, i dati Covid-19 sono ampiamente sottostimati. Antonio da Udine. Continua tra pochissimo il nostro viaggio di Nessun Luogo è Lontano, continuando a oltrepassare quella porta, lo dicevamo, e quel sottilissimo confine labile fra quello che viene definita libertà e quella che invece è prigionia, ma il Covid-19 non interessa proprio la borsa. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano stiamo provando ad analizzare, a radiografare la situazione di 11,5 milioni di persone nel mondo. Sono quelle che vivono nei penitenziari, in penitenziari che hanno strutture a volte molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi in Occidente. Altre volte sono magari in attesa di giudizio, come ricordano molti di voi al 349-238-6666. Altre volte sono dentro per reati minori. E non è un caso che molti stati nel mondo, anche alcuni regimi, tra cui l'Iran, stiano liberando migliaia, decine di migliaia di detenuti. Perché? Perché il coronavirus non guarda in faccia nessuno. Se vi è un assembramento è una ghiotta occasione, come ha scritto un altro ascoltatore, per poter impattare su quella comunità. Naturalmente la questione è ovviamente spinosa. Quello che è certo è che il coronavirus nelle carceri sta mettendo in luce la fragilità dei sistemi carcerari in alcune zone del mondo. Vi sono sistemi che resistono meglio, altri decisamente che sono destinati al collasso, ma tra pochissimo ci andremo. Proviamo a mettere il grandangolo relativamente all'Europa e vi faccio sentire la voce di Alessio Scandurra, che è responsabile dell'Osservatorio Europeo di Antigone. È un'associazione che da quasi 30 anni lavora per i diritti e le garanzie nel sistema penale e penitenziario. Proviamo a fare una panoramica con lui sulla situazione del sistema carcerario europeo rispetto all'epidemia. Come l'Italia, anche il resto d'Europa in generale si sta facendo trovare impreparata all'emergenza coronavirus rispetto al sistema penitenziario e alla prevenzione dei contagi in carcere. E il sovraffollamento, le condizioni igieniche precarie e risposte inadeguate per la tutela della salute delle persone detenute sono un fenomeno comune a tanti paesi europei, sia dell'Europa mediterranea, penso alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, oltre che all'Italia, che all'est europeo e ad esempio ai paesi baltici. Nella maggior parte dei paesi europei in questo momento si sta cercando di introdurre misure che limitino le visite dei parenti, l'ingresso degli operatori in carcere e in alcuni paesi più che in altri si sta cercando di promuovere misure che facciano calare i numeri, che facciano uscire i detenuti per abbassare il sovraffollamento e rendere più semplici la gestione di questa emergenza. Questa è la situazione europea, fotografata da Alessio Scandurra in maniera molto sommaria. Lo ripeto, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo ad accarezzare le situazioni, non possiamo entrare decisamente nello specifico di ciascun quadrante, però forse un passettino in più lo possiamo muovere verso un paese che è alle porte d'Europa, un paese che ha recentemente chiesto tramite il suo presidente di riavviare i dialoghi per l'ingresso nell'Unione Europea. Il paese è membro della NATO e ha fatto venire tantissimi mal di pancia sia in seno alla NATO che all'Unione Europea. Vi do 3 secondi, vediamo chi lo indovina. Niente, nessun WhatsApp al 349-238-6666. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun Luogo è Lontano è Marta Ottaviani, giornalista freelance, esperta di Turchia, La potete leggere sulla Stampa e L'Avvenire. Marta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, era facile comunque. Era facile, è arrivato adesso il WhatsApp, ma magari anche la tecnologia non ci supporta. È un periodo in cui le reti sono super intasate, e, insomma, siamo tutti collegati online per forza di cose. Marta Ottaviani, snocciolo un attimo un po' di dati che, peraltro, possiamo dirlo in camera caritatis, mi li hai riferiti tu ovviamente pochi minuti fa. In Turchia 375 penitenziari, 320.000 detenuti, però il limite massimo è 120.000. Parola d'ordine, sovraffollamento. Come la Turchia sta reagendo e sta affrontando il problema del coronavirus nelle carceri? Allora, due giorni fa è stata approvata dal Parlamento una normativa che permetterà a 90.000 detenuti di essere scarcerati. Si tratta di detenuti che si sono macchiati dei cosiddetti, tra virgolette, reati minori, quindi furto, stupro, quindi comunque cose, diciamo, non proprio onorevoli. Saranno 90.000, il che però fa sì che le carceri turche saranno in sovraccarico ancora di più del doppio rispetto a quanto potrebbero sopportare. Le carceri turche in Turchia sono 375, il governo da tempo ha avviato la costruzione di altri circa 120 penitenziari e in buona dose ci sono tutte le persone che sono state rinchiuse qua dopo le purghe post-golpe nel 2016, dal 2016 in poi, di Recep Tayyip Erdogan. Una cosa importante, Giampaolo, sì, è che in carcere rimangono i cosiddetti terroristi, quindi quelli che sono stati messi in carcere dopo il golpe, che sono in larga parte oppositori e militanti curdi, tra cui anche, ricordiamolo, tanti colleghi. Ci sono 160 sì, giornalisti in questo momento in carcere, e tra questi c'è anche Selahattin Demirtas, che è il leader sì, del partito curdo, che è in carcere dal 2017, che ha già avuto problemi di salute relativi al cuore, non al coronavirus, ma che se ovviamente dovesse contrarre l'infezione avrebbe un quadro clinico piuttosto complesso. Certo, mi compiaccio Marta Ottaviani, perché è vero che la linea qua su WhatsApp non era prontissima, complice il traffico evidentemente, però tu hai stabilito un contatto telepatico con un ascoltatore che, mentre tu parlavi al 349-238-6666, recitava testualmente: domanda maligna, giornalisti e politici filocurdi resteranno dentro? È così, Marta Ottaviani ha risposto. Mi sembra di poter arguire però dalle tue parole, Marta, che si sta trasformando questa, diciamo, riforma, apertura delle carceri turche, in una formidabile leva politica nelle mani di Erdogan, perché da un lato, attua una mossa che è giusta dal punto di vista sanitario, cioè è efficace per risolvere quel problema. Dall'altra parte continua a pestare duro sui curdi, perché se le carceri sono delle bombe a orologeria o delle pentole a pressione sanitarie e rimangono dentro solo gli oppositori politici, insomma, altro che domanda maligna. Assolutamente, la domanda è più che pertinente. Erdogan sta usando il coronavirus per indebolire i curdi ulteriormente. Pensa che negli ultimi 10 giorni 8 comuni nel sud-est del paese sono stati commissariati, nel senso che avevano un sindaco curdo eletto in regolari e democratiche elezioni e sono stati commissariati dal governo causa emergenza coronavirus, per dirvi come Erdogan sta usando questa piaga ormai a livello globale per attuare una stretta autoritaria ancora più tenace sul paese. Sì. La voce che sentite è quella di Marta Ottaviani, una giornalista freelance, scrive fra gli altri per Stampa e Avvenire, collabora anche qui con Radio 24, autrice di vari libri proprio sulla Turchia. Marta, c'è qualcuno che non ha ben compreso sia le mie che le tue parole. Le mie quando dicevo che è un paese alle porte dell'Europa, perché un ascoltatore mi rimbrotta e dice: se non ve l'hanno detto, la Turchia non è Europa. Sì, ce l'hanno detto e noi non l'abbiamo detto. Abbiamo detto che il presidente Erdogan ha recentemente chiesto di riavviare i colloqui per il processo di adesione all'Unione Europea e ho detto che la Turchia è un membro della NATO. Poi lo stesso ascoltatore, ma gli fa eco un altro ascoltatore, si stupisce: lo stupro è reato minore, ma complimenti. Furti, rapine, stupri, reati minori. Marta Ottaviani, aiutaci a comprendere e spieghiamo anche a questi ascoltatori che dal lato quella sullo stupro ovviamente c'era ironia da parte tua e dall'altro invece c'erano reali reati minori. Sì, sicuramente il furto entro determinate caratteristiche, certo, comunque è considerato un reato minore. Ricordiamo che proprio sullo stupro e anche il matrimonio forzato, nonché l'adulterio, in Turchia ci sono dei disegni di legge fermi in Parlamento che sono oggetto di diverse polemiche, proprio perché secondo l'opinione pubblica, diciamo più liberale, che però ormai insomma si sta riducendo all'osso, sì, non sono reati sufficientemente puniti. Però insomma vorrei dire anche anche all'ascoltatore che purtroppo anche in altri paesi magari più evoluti della Turchia e già in Unione Europea c'è spesso questa trascuratezza riguardo soprattutto allo stupro e allo stalking e altri tipi di reati. Però ecco, sicuramente in Turchia quelli che sono stati messi dentro per motivi politici rimangono in carcere, questo è poco ma è sicuro. E questa è la sconfortante fotografia che ci restituisce Marta Ottaviani, giornalista esperta di Turchia. Marta, grazie mille, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi, buona giornata. Bisogna dare la possibilità ai carcerati di reintegrarsi, altrimenti tutto si ritorce contro la nostra società. È esattamente questo il problema, la speranza da parte di molti osservatori e analisti, e che anche questa epidemia del coronavirus sia la base per una nuova riflessione sul sistema carcerario. I tassi di recidiva, per esempio, in Italia sono altissimi. Ci deve essere una riabilitazione a tutti gli effetti, si deve dare la possibilità di poter lavorare dentro al carcere. La punizione di per sé non porta assolutamente al reintegro poi della persona, se non in casi rarissimi. Proseguiamo il nostro viaggio, vi porto in Iran perché ha destato scalpore la liberazione di decine di migliaia di prigionieri, sempre per l'emergenza coronavirus. Vi faccio sentire la voce di Anisè Bassiri Tabrizi, analista al RUSI di Londra, Royal United Services Institute, che ci offre un punto di vista particolare su una categoria molto verticale da questo punto di vista, su donne e prigionieri politici. Sentite. Dunque, la situazione nelle carceri sovraffollate iraniane, così come nelle carceri di altri paesi che sono stati colpiti dal coronavirus, è attualmente molto preoccupante. A dimostrarlo è il fatto, tra le altre cose, che il governo iraniano ha deciso di rilasciare come misura temporanea 85.000 dei suoi prigionieri e di condonare la pena a 10.000 di questi. Tra i prigionieri a cui è stata concessa la grazia ci sarebbero anche quelli con pena inferiore ai 5 anni e che hanno condanne per ragioni di sicurezza, tra cui ricadono i prigionieri politici, e questo chiaramente è un passo molto importante, una misura che è stata vista di buon grado da tutti quelli che si sono attivati negli anni per la scarcerazione dei prigionieri politici iraniani e non che sono soggetti all'imprigionamento da parte dell'Iran. Rimangono a rischio e sembra senza chance di scarcerazione, almeno per il momento, coloro che hanno condanne superiori ai 5 anni per ragioni di sicurezza o non. Tra queste vi sono molte donne attiviste per i diritti umani, tra cui per esempio Nasrin Sotoudeh e Narges Mohammadi, che quindi rimangono a rischio contagio per quanto riguarda il coronavirus. Nonostante il fatto che chiaramente il sovraffollamento nelle prigioni è stato attualmente ridotto in maniera significativa per la decisione iraniana di rilasciare 85.000 dei suoi prigionieri. Un'altra figura di spicco su cui ci sarà attenzione su quanto verrà deciso da parte dell'Iran è la cittadina britannico-iraniana Nazanin Ratcliffe, a cui è stato concesso il rilascio temporaneo per 2 settimane estesa ad un mese, ma la cui sorte nel più lungo termine non è ancora chiara. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Se solo adesso vi siete sintonizzati, questa è una puntata di Nessun Luogo Lontano in cui stiamo trattando un tema molto molto delicato. C'è una popolazione nel mondo, 11 milioni e mezzo di persone, che sono particolarmente fragili in questo momento perché sono costrette a vivere molto strette, molto vicine l'una all'altro. È il caso della popolazione carceraria, 11 milioni e mezzo, di cui il 25% solo negli Stati Uniti, con una risposta statunitense molto variegata di stato in stato, con una situazione peraltro, come molti di voi stanno sottolineando anche sulle pagine Facebook di Nessun Luogo Lontano, alcuni carceri sono demandati a società private, i detenuti vengono fatti lavorare, insomma c'è tutto l'interesse a non farli uscire dal carcere, quindi a non limitare l'assembramento, perché come direbbe qualche americana, evidentemente business is business. C'è un altro problema che riguarda un paese che è legato a doppio filo con gli Stati Uniti, perché lì gli Stati Uniti hanno combattuto la guerra più lunga della recente storia, anzi dell'intera storia statunitense, ed è l'Afghanistan. In questa storia tutta afghana, i detenuti, i prigionieri, giocano un ruolo fondamentale, perché sono stati la leva, o se volete la merce di scambio tra il governo di Ashraf Ghani e i talebani stessi, e poco prima anche tra l'amministrazione statunitense e i talebani stessi a Doha. I prigionieri in particolare sono quelli talebani, ma in Afghanistan ci sono anche altri detenuti. Buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, analista, esperto di terrorismo e soprattutto del quadrante afgano. Claudio, buongiorno. Buongiorno Giampaolo e a tutti gli amici di Radio 24. Allora, le prigioni, Claudio, dicevamo, meglio i detenuti, sono la chiave della recente politica afghana, lo scambio di prigionieri Taliban, precondizione per pace e dialogo che per il momento non si vede. Come impatta il Covid-19 e com'è la situazione delle carceri afghane in questo momento? Ma con l'Afghano è una situazione particolarmente grave che potrebbe avere un duplice effetto in termini di gestione del virus. Da un lato un effetto positivo, dall'altro un aspetto meno positivo. Il governo afghano potrebbe sfruttare la necessità di alleggerire il peso del sistema carcerario rispondendo in tempi brevi alla premessa dell'accordo con i talebani, che prevede un rilascio di circa 5.000 prigionieri che attualmente sono detenuti nelle carceri governative. Le resistenze politiche potrebbero qui trovare la soluzione che toglierebbe l'imbarazzo dal rilascio di questi talebani attualmente detenuti. E questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo invece è rappresentato dal fatto che lo stesso governo afghano è molto debole e verosimilmente non sarà in grado né di contrastare la diffusione del virus né le conseguenze economiche e sociali che saranno devastanti in un paese ormai prossimo al collasso e di cui i talebani sapranno ben approfittarsene. Ecco, Claudio Bertolotti, ti interrompo per un'ultima chiosa, perché se è vero che i talebani potrebbero, e probabilmente ai noi lo faranno, approfittarsi di questa situazione, è anche vero che si troveranno a dover gestire essi stessi il coronavirus e probabilmente in quelle enormi zone rurali che loro controllano, circa il 50% dell'Afghanistan, meno le grandi città più le zone rurali, magari il coronavirus c'è già e quindi prima o poi dovranno sbatterci la faccia con questa emergenza sanitaria. A quel punto cosa succederà? Ma allora, intanto i talebani sono stati estremamente efficaci dal punto di vista comunicativo, perché già 2 settimane fa hanno rilasciato un loro video in cui comunicavano alla popolazione come comportarsi in maniera corretta per prevenire il contagio, utilizzando la stessa tecnica comunicativa che abbiamo utilizzato in Occidente, quindi norme igieniche e comportamentali. Il problema però sarà sul medio periodo, cioè quando gli effetti del coronavirus si manifesteranno. Beh, allora qui i talebani non riusciranno, così come non riuscirà e non sta riuscendo il governo afghano, a dare una risposta efficace, ma questo non li indebolirà di fatto, ma porterà a un peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni locali, in particolar modo quelle rurali e periferiche, che sono quelle che più patiscono questo stato di guerra al quale si somma la malattia. Certo, e anche questa volta, come dire, una formidabile opportunità per chi beneficamente se ne può approfittare. Grazie mille. Claudio Bertolotti, lo ricordo, dirige Start Insight, è analista, esperto di terrorismo e del quadrante afgano. Claudio, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Un ascoltatore che chiude il messaggio con "non scherziamo". Aprirò la mia risposta con "non scherziamo". Adesso vi leggo il suo messaggio. In carcere uno deve soffrire le pene dell'inferno, non deve assolutamente avere una funzione di redenzione per i carcerati. Appunto, non scherziamo. Ecco, gentile ascoltatore, non scherziamo, è la Costituzione italiana che lo dice. I trattamenti in carcere devono tendere alla rieducazione del condannato e non devono essere contrari al senso di umanità. Quindi in carcere uno non deve soffrire le pene dell'inferno, lo dice la Costituzione. Se lei è contrario, provi a fare una raccolta di firme. Potrebbe raccogliere alcune centinaia di migliaia e proporre un emendamento costituzionale per ribaltare quello che dovrebbe essere uno dei cardini, poi in realtà molto poco rispettato, anche nella situazione carceraria italiana, che sicuramente andrebbe riformata. Ma non voglio parlare d'Italia, voglio piuttosto tirare le somme, tirare le fila di questo lungo ragionamento e viaggio che ci ha portato a raccontare in tanti quadranti del mondo quella che è la situazione di fragilità e di pericolo di 11 milioni e mezzo di persone. Ancora la voce di Florence Lofay, dirige Prison Insider, e cerchiamo di in qualche modo chiudere il cerchio con le sue osservazioni finali. Sentite. Il è all'ora attuale. Non è semplice elaborare dati e informazioni sulle carceri oggi, anche perché spesso i governi non forniscono i dati corretti e la realtà cambia molto rapidamente. Tuttavia, l'associazione prova a fotografare la situazione e ha individuato delle prassi che sono uno spunto di riflessione, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione in tempi celeri o meno delle misure precauzionali. Ad esempio, negli Stati Uniti, in alcuni stati la reazione dell'autorità penitenziaria è stata relativamente veloce, ma ci è voluto molto tempo perché certe misure venissero adottate a livello federale. Ad esempio, la decisione ufficiale del lockdown in tutto il territorio statunitense è arrivata il 2 aprile, molto tardi quindi, se si considera il livello di contagio a cui siamo arrivati. Misura interessante è anche la liberazione dei detenuti, il rilascio anticipato o la concessione della libertà condizionale. A questo proposito, si può citare il caso dell'Iran, dove sono stati liberati circa 85.000 prigionieri. Una cifra importante, certo, ma occorre ricordare che in questo paese la popolazione carceraria è davvero imponente, per cui non è detto che le misure finora adottate vadano davvero a ridurre la massa dei detenuti nelle proporzioni auspicabili per la sicurezza di tutti. Dalla parte delle pratiche da evitare, segnalo nuovamente gli Stati Uniti, dove la disinfezione con le soluzioni idroalcoliche non è possibile, perché l'alcol nelle carceri è una sostanza vietata, e il caso della prigione principale di Abidjan, in Costa d'Avorio, dove il sovraffollamento è del 450%, motivo per cui laddove dovrebbe esserci un detenuto ce ne sono 4,5. Capite bene che in queste condizioni il mantenimento delle più basiche condizioni di igiene è impossibile. La realtà delle carceri nel mondo è davvero complessa. Quello che posso dire in conclusione è che le condizioni di vita dei prigionieri dovrebbero ispirarsi a livello internazionale alle cosiddette regole Nelson Mandela, e che se queste regole fossero già rispettate ora, non ci troveremmo in questa situazione critica. Mi auguro che tutti i governi lo tengano presente. Donc c'est un outil qui doit rester un outil de référence et sur lequel j'espère que les gouvernements du monde entier continueront à travailler. Queste sono le indicazioni, la ricetta, se preferite, di Florence Lofay, direttrice di Prison Insider, che da anni studia i vari sistemi penitenziari, carcerari e a volte le loro strutture in giro per il mondo. Quei sistemi carcerari che adesso sono sotto minaccia per il coronavirus, così come evidentemente lo siamo tutti noi, ma mentre noi possiamo evitare gli assembramenti, la popolazione carceraria non può. Sono arrivati tanti messaggi al 349-238-6666. Molti snobbano quelle che sono basilari principi di società civile, di convivenza, della nostra stessa Costituzione. Beh, forse un invito a quei pochi che la snobbano e magari darsi una bella riletta. Sapete cosa vi dico? Non è un invito, è un ordine. Scherzo, naturalmente. Ma era il preludio ai titoli di coda. Ringraziamenti per essere stati con noi all'ascolto. A tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani, ore 16. Buona giornata da Gianpaolo Musumeci.